Cruciani. Professore, sono Cruciani, volevo chiedere che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Il mio fidanzato sinceramente mi dice di ascoltare la zanzara, ma io non vi voglio proprio per niente sentire, perché parlate solo di figa, di come si deve fare la pipì nel lavandino e di come si deve cagare. Sinceramente siete proprio due ignoranti, ve lo devo dire, basta. Non è vero, Enrico, concentriamoci, sennò perdiamo tempo. Allora, secondo te che cosa ho? Sei stronzo. Ma non è vero, non è vero. Il regista non è cambiato, caro Davide, te ne sarai accorto? Non è cambiato. Si capisce, però ha ragione questa simpatica ascoltatrice. Ma non è vero, ma che ha ragione? Cosa ha ragione? Ma che dice? Ho fondato che il comitato per la chiusura della zanzara, certamente. Ha ragione. Allora, notizie di oggi. Il Libero Quotidiano, scusate se apro con questo, però ti rubo un secondo l'apertura. Sì, allora, il Libero Quotidiano, giornale straordinario, magistralmente diretto dal signor Feltri. Sì. L'ho compulso, come faccio ogni giorno quando voglio tornare di buon umore. Oggi ero molto depresso, peraltro. Sì, allora? Il weekend sono depresso. Allora, foto della Fedeli, della signora Fedeli, Mineo, ministro dell'istruzione. Titolo: boom! Valeria Fedeli, altro che laurea falsa, due punti, sesso e bambini, ecco il video dello scandalo. Poi dice: Dio buono, ma cosa è successo qua? Lo apre e dice: no, falsa, no, altro che la laurea, sesso e bambini, video dello scandalo. Che ha fatto? Una stupratrice di bambini? Ha fatto violenza? Esatto, ha fatto pedofila, che cazzo è? Niente. La battaglia del popolo, del Family Day e del mondo ultracattolico contro Valeria Fedeli. Cioè praticamente il Family Day se la prende come e il titolo degli amici del quotidiano Libero? Libero da che cosa non si sa? Libero dalle bufale dovrebbe essere. Valeria Fedeli, virgola, altro che laurea falsa, due punti, sesso e bambini, il video dello scandalo. Amici miei, è tutto finito. Tutto. Però non è tutto finito, perché io non so come andrà a finire. Magari sarà un disastro, magari finirà tutto a bordello, magari verrà cacciato ignominiosamente, magari produrrà dei casini incredibili in tutto il mondo. Questo non si sa, e chissà quando verrà il giudizio su un signore che in questo momento è il capo della Casa Bianca. Però non c'è dubbio, non c'è dubbio per il momento, che quello che ha detto mi sembra una novità nel campo della politica. Quello che ha detto in campagna elettorale, caro Parenzo, sta facendo. Sì, firma dei decreti, firma delle carte, magari dopo non si realizzeranno, non lo so. Intanto fa muro col Messico. Eccolo qua, firma una roba. Muro col Messico c'era già un pezzo. Ma no, muro col Messico, firma la cosa, pagheranno i messicani con il 20% di tasse sulle importazioni. E vabbè, intanto lo fa. Intanto lo fa. Quanto ti piace a te, stupendo, giallo lì, quanto ti piace? Stupendo. Sentiamo qualcosa in inglese che ci prende. Sentiamo, sì, sì, sì. The wall is necessary. That's not just politics. People want protection, and a wall protects. All you have to do people is ask Israel. Protection. They were having a total disaster coming across, and they had a wall. Il muro è necessario. Chiedere ad Israele. Chiedere ad Israele. Ragazzi, qui c'è uno che ha detto delle cose, poi magari succederà un casino, un disastro, un bordello, non lo possiamo sapere, e le fa un minuto dopo. Prendere appunti, prendere lezioni, magari dopo non le fa concretamente, non lo so. Per il momento ha detto una cosa in campagna elettorale, tuc, e le fa. Sai quella tortura che si utilizzava, come si chiama? Waterboarding, no? Sì, quella che è terribile, certo. Che Obama sta stravolgendo l'ordine mondiale, quello lì. Sta stravolgendo l'ordine mondiale. Lo trovo Donaldone. Sublime. Donaldone. Donald mio! Non ti arrendere, non ti fermare. Ti prego, non ti fermare. Sì, sì, waterboarding non è tortura, funziona, stupendo. Sì, ho letto così. So waterboarding used to be used because they said it really wasn't torture. It was the one step slightly below torture. That's why waterboarding That's why it was legal. I mean, torture is real torture. Okay. I terroristi sono subdoli, sporchi, ratti, malati. Ricordiamo cos'è il waterboarding, però, che è l'annegamento simultaneo sostanzialmente. Vabbè, intanto un piccolo annegamento. Vabbè. La tortura c'è sempre stata, dai. Proprio tu parli. L'esercito israeliano. Ma sembri libero, sciocca la zanzara. Parenzo pratica la tortura, ma sei matto, che dici proprio tu. Amico mio, l'esercito israeliano ne combina di tutti i colori. E non mi sembra che israeliano. La tua voce si alzi a condannare. Le torture dell'esercito, ma quali torture? Ma di che cosa parli? Libero, Parenzo, sciocca la zanzara. Ecco le torture. Quali torture, ragazzi? Di cosa parlate? Terroristi, subdoli, sporchi, ratti, malati. Certo, ma, che sì, è un eloquio da premier proprio, no? Ed è per il presidente degli Stati Uniti, eh? Sì, appunto. We are fighting sneaky rats right now that are sick and demented, and we're gonna win. Ragazzi, la realtà è questa. Noi qui in Italia parliamo di legge elettorale. Tu capisci? Il Mattarellum. Tu vorresti parlare di waterboarding? Ma certo! Ma come certo? Questo parla di cose concrete, sbaglierà. Ma spieghiamo cos'è, No, ma ragazzi, no. È l'uso di un collare con cui viene scaraventato ripetutamente il prigioniero contro un muro. C'è un'alternanza di ipotermia e ipertermia di gelo e fuoco. Umiliazione sessuale, schiaffeggiamento, privazione del sonno e annichilimento da rumore. Finita la sepoltura, finta sepoltura in casse mortuarie di fortuna. Lavaggio rettale forzato, uso di psicofarmaci. Questo è, amico mio, quello di cui parla questo signore con i capelli gialli, ragazzi miei. Questo Non è tortura, funziona qualche volta. Funziona. Lavaggio rettale forzato, questo dovresti farlo anche tu, per la verità, questa cosa che dovresti ogni tanto praticare, visto che sei uno sporcaccione. Ma ragazzi, la realtà è quella che vi dicevo prima. Mentre questo qua fa le cose, saranno anche sbagliate, non lo so, alcune sì, altre no, vedremo. In Italia si parla dei piccoli collegi elettorali, capito? Il Mattarellum, il proporzionale, il consultellum, ci si aggroviglia su queste cose, è una roba da pazzi, è un paese da chiudere, subito, chiudere, tutto, la corte, le motivazioni della corte, ma tu, sì, tu capisci che siamo... Perché devi dirlo con quel tono, ma però? La corte costituzionale è ovvia che darà le motivazioni. Motivazioni della corte, dobbiamo aspettare... Adesso, eccolo, so. Sì, certo, funziona così in democrazia, è inutile che sbeffeggi, la corte questa non è la democrazia, questa non è una roba indegna, è una roba indegna, un paese bloccato dalle motivazioni della corte costituzionale sulla legge elettorale, è una roba indegna, indegna di chiamarsi paese, siamo un paese di merda. Mentre quello fa le cose, lì c'è una cosa che funziona, brutta o cattiva che sia. Qui, brutta o bella che sia in realtà, qui da noi ci si aggroviglia sulla legge elettorale. Io divento pazzi, piccoli collegi, grandi collegi, quello che dice così, Calderoli che dice così, e l'altro che dice colà, Berlusconi che è a favore del proporzionale e però no, e gli altri che sono a favore del Mattarellum, e quello che dice quell'altro, e Mattarella che pare che voglia l'omogeneità. Ma tu ti rendi conto o no? Ho fatto una buona sintesi, no? Tu ti rendi conto no? Ti rendi conto no? È quello che ti chiedo. Ma lo sento veramente, non sto facendo show. Lo sento veramente. Ti rendi conto no? Che mentre il trampone dice il muro, firma le cose, noi stiamo ancora alla Corte Costituzionale e a Mattarella che deve pensare. Ma perché? Perché? Io vado ai matti. Perché? No, Duterte no, vi prego, mi dicono Duterte, metti il presidente delle Filippine, Duterte. Ah, cioè no, beh, ottimo presidente. Non possiamo mandare solamente però Duterte, Trump, tutta roba in inglese, mettiamo qualcosa in italiano. Sono italiani che ma è una cosa pazzesca, ma chi è che può andare a vivere? Ma voglio dire, no, mettiamo qualcosa in italiano, in lingua italiana. Ma chi è questo presidente delle Filippine? Cosa ha fatto? Sto dittatore qua. La chiesa è piena di merda, ha detto. Signor Duterte. Sto dittatore filippino. E poi non ha manco tutti i torti. Ma dai, ragazzi. La chiesa è piena di merda. Questo è il dittatore filippino. No, presidente, che dittatore? È dittatore. Ma no, Sgarbi sulla Raggi, dai, stupendo, ieri sera a Piazza Pulita. Paradossale, arriverà, no, arriverà fra, è arrivato alla specie ad Ambrangiolini, di come si chiama, alla Raggi, alla nuova Ambrangiolini, no? A quella lì, c'è Roma a Ambrangiolini. C'è una che appena non fa una cosa, l'ho comunicato a Beppe, l'ho detto a Beppe, ho scritto a Beppe, ma vaffanculo, Beppe del cazzo, vabbè. Nardella, vabbè, quando fa una cosa, l'ho detto a Renzi, ma vaffanculo, Roma non può avere un sindaco innocente, perché è un innocente, è come la Vispa Teresa, che cazzo di sindaco è? Ma Roma, sindaco, quello lì! Cioè tu dici che quindi... Ma vaffanculo, va là! Vabbè. E Beppe l'ho informato! vaffanculo. Vabbè. Ora, detto questo, parla di figa, per favore, a noi non frega in casa di niente. Vabbè, adesso non è vero che non ci prego. Eccolo qua. Sì, ha ormai sintetizzato bene quella che è la constituency, diciamo, ragazzi, di questa trasmissione. Aspetta, Parenzo, aspetta. Qual è la città dove ammazzano la gente per strada, ragazzi per strada di 20 anni? Così. Los Angeles. Secondo te qual è? Los Angeles. Insella uno scooter, aprono il fuoco davanti a una chiesa tra la gente. Se dico Napoli, no, poi si scatena il disastro. Qual è la città dove aprono il fuoco davanti a una chiesa tra la gente nella strada dello shopping del quartiere della periferia occidentale della città? Qual è la città italiana dove avviene potrebbe tutto ciò? Potrebbe essere Napoli. Uno poi dice che se la prende. Dov'è? È Napoli. È Napoli. Potrebbe essere Napoli. Poco dopo mezzogiorno, uno fatto fuori 20 anni. Non sono io che lo dico, Napoli violenta, più omicidi e rapine, le stese, le chiamano stese. Mi potete spiegare il significato vero della parola stese? Voi napoletani, tantissimi che siete all'ascolto, le stese sono il nostro terrorismo. Cioè c'è un signore della Corte d'Appello, credo, no? Il presidente... Corte d'Appello di Napoli, sì. Un signore della Corte d'Appello di Napoli, il quale fa un ritratto della città, no? E dice Napoli violenta, più omicidi e rapine rispetto all'anno scorso. Non lo dico io, non le dice Cruciani, lo dice un signore. Poi uno dice che se la prende, non è che se la prende, è il quadro della città. Parla di terrorismo, le stese sono il nostro terrorismo. Napoli. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. La Zanzara. L'altro giorno mi fa un mio amico: te ascolti sempre la Zanzara, ma cosa si parla alla Zanzara? E io dico: amico mio, alla Zanzara, di che vuoi che si parli? Si parla di puttane, trans, misoginia, misantropia, razzismo, depravazioni umane. Però ha anche dei difetti. Allora ragazzi, era il 27 gennaio 1945, il campo di concentramento di Auschwitz fu liberato, caro Parenzo, oggi la giornata della memoria, ma io non te la leggo naturalmente questa cosa qui. Cosa molto seria. Assolutamente, però senti cosa scrivono, poi mi dirai chi sono, Poi mi dirai chi sono. Era il 27 gennaio 1945, il campo di concentramento di Auschwitz fu liberato, sono trascorsi 72 anni, ma l'olocausto non è mai finito, ha solo cambiato vittime e mandante. I mandanti siamo noi e le vittime sono i milioni di animali che ogni giorno vengono resi schiavi per poi essere rinchiusi per anni negli allevamenti intensivi. Apri gli occhi. Io non dimentico, hanno fatto pure una specie di meme, come si chiama adesso, quelli che vanno su Facebook, sul web. Io non dimentico col campo di concentramento di Auschwitz, e invece di ebrei che entrano dentro, con la croce uncinata lì, ci sono le pecore o gli agnelli, quelli che sono, pazzesco, capito? E poi hanno messo le mucche. Cosa vuoi che ti dica? Le mucche. Con il vestito degli internati, con la simbolo della, come si chiama, degli ebrei, la stella gialla che non mettevano, è il simbolo degli ebrei, simbolo, quello che mettevano i nazisti, sì. Simbolo, no, sembri Libero Quotidiano, ma no, stai scherzando, stravolgi tutto, quello che mettevano che hai sbagliato, quello che mettevano i nazisti, esatto, sì. Scrive, intanto mi scrive l'onorevole Matteo Salvini. Sì, che ti ha scritto? Leggo il messaggio. No, ma non leggere le cose private. Scusa, ho avuto l'autorizzazione. Ho scritto. Mi scrive Trump eroe! Punto esclamativo. E giù le mani da Napoli, mi ha scritto. Ma Trump, come giù le mani da Napoli? Perché scusa, giù le mani da Napoli? Trump eroe e giù le mani da Napoli. Ragazzi, metà dei napoletani ha paura di denunciare i delitti. Camorra, metà dei napoletani ha paura di denunciare i delitti. Io dico solo questo, metà dei napoletani ha paura di denunciare i delitti. Magari succede così anche in altre parti d'Italia. Ma intanto è uscita questa ricerca. No. Perché c'è la denuncia? Non ce n'è la denuncia. Lei non denuncierebbe? No. Per quale motivo? Ma niente, perché se si collabora, che siamo più protetti, è normale che non denunci. Non si sente protetto? No. Ah, Allora, c'è un prete che si chiama Don Bruno Fasani, c'è un altro prete che delira sull'olocausto dicendo che oggi le vittime sono diventate carnefici, un prete di Altamura se non sbaglio, ce n'è un altro in realtà che si chiama Don Fasani. Cioè il delirio proprio all'ennesima potenza. Il quale dice venite in vacanza al nord, non in Abruzzo. Beh, devo dire un grande tempismo questo prete, sempre per Don Bruno Fasani. Bella gente dice. Non sarebbe il caso in questi giorni che si soprassedesse ad andare a sciare in queste zone con il rischio di occupare mezzi, persone, interventi e quant'altro? Lo dico in modo un po' provocatorio e non abbiatevene, ma venite su al nord, Oberege, Andalo, a Brunico, venite su, chiederemo di farvi fare uno sconto, regalatevi una vacanza là, ma in questo momento non impegnate energie importanti per altre cose che non siano soccorrere quelli che sono stati colpiti dal maltempo e dal terremoto. Io non ho capito, ma questo qua che fa il capo della comunicazione del Trentino Alto Adige o non so di quale altra regione questo signore? Non ho capito. Un bel silenzio non fu mai scritto. Al contrario, uno dovrebbe fare per dare soldi a quella regione, a chi ne ha bisogno dovrebbe andare lì in vacanza. È esattamente al contrario. Caro Don Fasani, che non fai l'agitprop della regione o il comunicatore della regione Trentino o dei tedeschi là sopra, là. Antonio dalla provincia di Caserta, caro Parenzo, si inizia, Antonio. Oh mamma mia. Antonio, vai Antonio, vai. Buonasera. Buonasera, dimmi. No, è che la coppa è anche, niente, perché la coppa è anche nostra, quella che è successa. Di cosa? Di tutto, degli stranieri che li abbiamo fatti venire negli anni 90. Sì, negli anni 90, sì. All'inizio che incominciano a venire. Sì. Noi, no... No. Non andare a cogliere i pomodori, non a cogliere le braco, non andare a cogliere i tabacchi. Quando adesso li vogliamo fare. Questo è il discorso. Allora, quale prima, discorso? Questo è il discorso. Quale discorso? Scusa. Questo è il discorso. Quale il discorso? Il discorso è che Crucia. Sì, Crucia, dimmi. Sì. Qual è il discorso? Se all'inizio sì, noi andavamo a cogliere, anche se era poco come soldi. Non all'inizio di che cosa? Però? Se all'inizio lui dice, aspetta, cerco di tradurre, se all'inizio noi andavamo a raccogliere i pomodori al posto degli stranieri che arrivavano. Ah, tutto, okay. Hai capito qual è la situazione? Allora, no, ma io non ho capito niente. Veramente. Lascia perdere, lascia parlare. Allora? Tutto questo non succederemo. Adesso no, che cosa vogliamo da noi? Accontentiamoci di tutto questo che c'è. Sì. Che si ruba, si fa anche mo ho sentito pensare che a Modena hanno preso pure due sindacalisti là. Sì. Oh, vedi un po' da questi due, da quanto tempo lo facevano? Scusami, Antonio, ma non ho capito. Dunque, abbiamo sbagliato noi a fare cosa? No, noi non è che abbiamo sbagliato. A fare arrivare gli stranieri, che cosa? Esatto, l'abbiamo fatti venire. Va bene, accettiamoli. E i Rom? È la stessa cosa. Noi non, negli anni nel 1900 non siamo stati a... Che c'è tra 1900? Ah, perché quando siamo stati in America. Ah, sì. In Belgio, sì. Ah, sì, alle Mini. E quindi in Svizzera. E dunque? Allora, bisogna essere le cose, bisogna essere un po' più... regolari, capito Parenzo? Bisogna essere regolari. Sì, ho capito moltissimo, no, in realtà. Però... Bisogna essere regolari. Questa è la situazione. E lavoriamo. Mo, se questi. Sì. No, non è una questione. Se... No, ma regolari. Voi avete capito la situazione. Se questi vanno. Tu l'hai capito? Niente, tu l'hai capito? Non ho capito niente. Che c'è da capire, Antonio? Niente. Che niente. La vita, lasciamola stare come sta. La vita, lasciamola stare come sta. Andiamo avanti. Scusate, no, ma un problema, no, la frase è fondamentale. La vita, lasciamola stare come sta. Sì, questo può essere anche. Cioè, tu dici, giusto. Lasciamo andare la vita. Per far la vita meno amara. Che tanto noi l'abbiamo fatti venire qua. Mo che cosa vogliamo noi? Capito? Noi l'abbiamo fatti venire. E dunque noi adesso non ce la possiamo prendere con noi stessi che l'abbiamo fatti venire qua, giusto? E questo è il discorso. Uno ogni tanto dovrebbe fare durante la giornata. Sì, certo. Com'è che si fa, Antonio? Andiamo avanti. Andiamo avanti, sì, noi dobbiamo andare avanti per forza. Sì, ecco, sì. Fermarsi qui sarebbe bello. Dunque ma non tu è dici possibile. La colpa è nostra. Anche nostra. Non è dei neri. No, perché alla fine. Alla fine. Questi qua che sono venuti in Italia. Sì. Si accontentano di poco, hai capito? Allora, poi questo, vendi droga, vai a rubare. alla fine alla coppa è anche nostra, questo voglio dire. Capito, Perez? No, mi è tutto molto chiaro. No, ma la massima sulla vita non ho capito io. Scusa, la puoi ripetere, Antonio? Sì, dimmi, dimmi. Quello che hai detto sulla vita, quella frase fondamentale sulla vita. La vita deve essere, com'è che hai detto? Francesco? Sì, no, no, non è che mi sono scordato. Lascia, alle volte si dice vivi e lascia vivere. Vivi e lascia vivere, sì, capito? Era la cosa. Ah, cioè, lascia sta. Ah, lascia che la vita vada avanti. Ah. A fine mese. A fine mese, veniamo pagati. Oh, che c'è frega. Ah. E andiamo avanti. A dopo. Che cosa vogliamo noi? No, e che ne so, che vuoi tu, Davide? Che vuoi tu? Io voglio andare in pubblicità e andare a fare la pipì così, durante il telegiornale. Vado solo un attimo a fare la pipì. Andiamo avanti. Sì, certo che andiamo avanti. Lasciati un parenzo e alla defecazio non ci penso. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. La Zanzara. Ehi, ehi, Cruciani, senti, adesso sto in affitto e sto comprando casa e non vedo l'ora di dire alla mia padrona di casa: io non pago affitto, non pago affitto, io non pago affitto, non pago affitto, io non pago affitto, non pago affitto, non pago affitto, non pago affitto, oh, make me over. Semplicissimo, se volete parlare dei filetti di merda di Sgarbi, o volete indicarci qual è il miglior combustibile per i rom, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 0024. Se invece volete parlarci delle emorroidi dei froci, o volete chiamare negro qualche profugo, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 7171 701. Siamo al top. Andiamo avanti. Beh, andiamo avanti per forza, amico mio. Amico mio da Caserta che hai chiamato prima. Allora, segnalo questo, oh, amico mio. Durante la pausa pubblicitaria ero tranquillamente al bagno a fare la pipì. Mi chiamano dal concierge giù, dal centralino, e mi dicono: guarda, c'è un fan che vuole venire su di voi. Un fan, ma che cazzo è? Ma che già sono molestato ogni tanto a casa, mi compare qualcuno, racconterò nei prossimi giorni che cosa mi è accaduto. Però dico: ma non fatelo passare assolutamente. Poi mi ricordavo che il gruppo di Riccardo da Roma mi aveva contattato attraverso non so chi. Insomma, te la faccio breve, è salito qui sto ragazzotto. Anche simpatico, di bello aspetto. Vuoi salutare? Prego. Ciao Cruciani. Chi è questo? No, non so, uno del Riccardo da Roma. Ma scusa, ma tu fai tra la gente? Sono proprio un fan tuo, Giuseppe. Sì, mi ha detto: io vengo su, però io la detesto, mi piace Cruciani. Dico: ecco, venga qui tranquillamente. Scopro, gli ho sequestrato il telefonino, che hanno una chat questi miserabili, dove Mauro da Roma manda i suoi audio. Mauro da Mantova, scusa. Dove sostiene che tu lo censuri. Aspetta un attimo, che Sto arrivando da te. Vomitate ste stronzate, quel coglione Frocetto e bravo di merda col cazzetto. Cioè, adesso loro, capito? Ma dove cazzo l'hai tirata fuori se io sia? Capito? Allora, questo Mauro da Manto. Che Radio Padania è stata acquistata 2 mesi fa da un calabrese, eh? Ricordatevelo questo. Cioè, hanno una chat in cui ci sono. In cui si. No, ma delitto, non è ma una... no, ma sono dei matti psicolabili. Sì, argomenti. C'è Mauro da Mantova che gli manda gli audio di tutte le trasmissioni, allora, alle quali interviene. Adesso hai introdotto te l'argomento, io non volevo nemmeno parlarne. Il signor Mauro da Mantova è arrabbiato col sottoscritto questa volta, non con te. Questo ragazzo che è qui. Non con te, non è, come dire, non credo che Mattarella sia preoccupato per questa cosa qua, non credo. Ecco, oggettivamente non credo che le borse siano in subuglio, diresti te. No, cioè, non ti preoccupare. Però è una cosa che magari può interessare qualcuno. Il signor Mauro da Mantova, che si autodefinisce telefonista della Zanzara, persona che io abbraccio fortissimo, perché insomma gli ho dato anche un po' di vita recentemente, nel senso che gli ho dato qualche ragione di vita, nel senso che io ascolto tutti, persino Mauro da Mantova. Capito? Persino Mauro da Mantova, come sai, sono molto tollerante, ascolto, e anche una brava persona, secondo me. Per te è un delinquente, per secondo me invece è una brava persona. Un delinquente, un demente. Il quale ce l'ha con me, perché non lo faccio intervenire più in questa scritto, trasmissione. C'è tutto. Aspetta, in questa chat. Ma non devi lasciare perdere la chat. Non intervenire più. Ed è intervenuto a Radio Padania, pensando di farmi un torto. Caro Mauro, non me ne può fregare di meno. Comunque sentiamo Mauro, poi chiudiamo, poi chiudiamo questa cosa qui, perché adesso non possiamo parlare. Che è pazzesco. Il caso Mauro da Mantova. Libero, polemico. Michele alla Zanzara, Mauro da Mantova chiama Radio Padania. Chi se ne frega, però? Chi se ne frega? Ecco perché mi tacciano spesso alla Zanzara, perché io dico cose scomode, scomode per Confindustria, perché la radio di Confindustria, Confindustria va a spasso con i signori furbetti del PD, i mafiosetti, non piluisti, piquatristi, perché adesso ci si tratta di piquazzo. E io sono Mauro da Mantova. Uè, Mauro. Interventista della Zanzara di Radio 24, e non concorde con quello che dice il Tamarro di Crociani, che lui è a favore dell'adozione gay. Io ho avuto 21 anni di convivenza con un gay, cioè convivenza nel senso che lui abitava al quinto piano, io abitavo al secondo, e mi diceva: è una cazzata, noi siamo omosessuali gay, ma non esiste che noi andiamo ad adottare bambini. Ma scusa, aspetta, no, cioè, ho avuto 21 anni di convivenza, quello abitava al quinto piano, tu al secondo. Quale convivenza? Quale? Quella al quinto, quella al secondo. Siccome un gay che abitava al quinto piano e lui al secondo gli ha detto di essere contro l'adozione dei bambini, allora ha ragione lui. È un instabile. No, ma tu capisci che non è possibile questa cosa qua, eh? Non è possibile. Oh, coglione, c'è la tua sorella! Fatta al culo! Signor Mauro da Mantova, che dopo essersela presa per una tu vita, hai una responsabilità enorme. Io non ho nessuna responsabilità. No, nel degrado questo morale si autodefinisce telefonista della Zanzara e chiama il sindaco di Pesaro, la Ricci, quindi continuo. La segreteria del sindaco del PD di Ricci. Ma mi ha chiamato Ricci sconvolto. Ho detto: sì, scusa, sindaco, ma questo qua si autodefinisce come se fosse un ruolo. Sì. Telefonista della Zanzara. Ma è roba pazzesca! Dai, su. Ah, andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Cioè, Mauro, mi hai rotto i coglioni. Capito? Mauro da Mantova, mi hai rotto i coglioni. Anche tu mi hai rotto. Sono arrivato a dire che mi hai rotto i coglioni. No, intervieni dove vuoi. No, fai quello che ti pare. Qui le porte sono sempre aperte per te. Però mi hai rotto i coglioni. Allora, il waterboarding, hai sbagliato tutto. Mi hanno chiamato nel frattempo e mi hanno detto: il walling, no, è l'uso, ma non c'entra di un niente. Quello che tu hai detto non c'entra assolutamente nulla. È il walling quello. Allora, prevede che la persona sia legata. Il waterboarding è un annegamento simulato. Esatto, bravo, solo questo. Il waterboarding. Il walling. No, ma stai tranquillo, no. Aspetta. Ma no, perché io ho parlato del walling, cioè l'uso del collare. Ma quello con non c'entra cui niente. Scaraventare. È un'altra tecnica vabbè, di tortura. Capito, ma non è il waterboarding. Fatta dalla CIA. Vabbè, ma lascia perdere. Quello ha parlato, Trump ha parlato del waterboarding, che è: prevede che la persona sia legata ad un'asse inclinata con i piedi in alto e la testa in basso. Coloro che svolgono l'interrogatorio bloccano le braccia e le gambe alla persona in modo che non possa assolutamente muoversi e le coprono la faccia. In alcune descrizioni la persona è imbavagliata e qualche tipo di tessuto ne copre il naso e la bocca. In altre la faccia è avvolta nel cellofan. A questo punto colui che svolge l'interrogatorio a più riprese vuota dell'acqua sulla faccia della persona. A seconda del tipo di preparazione l'acqua può entrare effettivamente nelle vie aeree oppure no. L'esperienza fisica di trovarsi sotto un'onda d'acqua sembra essere secondaria rispetto all'effetto psicologico. La mente crede di stare per affogare. Vabbè, dai, vabbè, dai. Sì, vabbè, dai. Ragazzi, è tra l'altro è legale nell'esercito israeliano, mi hanno detto. Ora smentiscimi questa cosa. È legale nell'esercito israeliano. Proprio. Sì, assolutamente. Ragazzi, la tortura esiste ed esisterà sempre. Assolutamente, tant'è che la Theresa May, il premier britannico, era imbarazzatissima dopo la visita e l'incontro con Trump di questa. Ma chi se ne frega? La Gran Bretagna non giustifica la tortura in nessuna circostanza. Roberto da Napoli. Ha creato un casino, un incidente diplomatico pazzesco. Roberto da Napoli. Roberto, ciao, bello. Dimmi. Ci sei? Allora, volevi sapere cos'è la stesa, no? No, la stesa, allora, mi hanno informato anche su questo, ovviamente, in tempo reale, amico mio. Sono le persone che si stendono a terra, in casa, sui balconi, per sfuggire ai colpi sparati all'impazzata dalle paranze. Gruppi di giovanissimi a bordo di scooter sparano sparano a caso su muri e finestre per affermare che lì comandano loro. Ne parla, tra l'altro, Saviano nell'ultimo libro, La paranza dei bambini. Capito? Quando si è andato bene. E allora? Ma l'hai chiamato un'ora fa. No, ma scusami, a parte che hai chiamato tu, poi noi ti abbiamo richiamato. Ma comunque, che cos'è la stesa? Spiegami, cos'è la stesa? La stesa è più o meno quello che hai detto tu, nel senso che sarebbe una scorribanda fatta normalmente di notte. Sì, ma non me la prendete con me, però, perché queste cose qua esistono solo a Napoli. Diciamo la verità, esistono solo a Napoli. Risolvetele le cose. Non è un problema di DNA, certamente. Non è un problema etnico, non è un problema lì, ma le dovete. Esistono solo a Napoli, sì o no? C'è un signore che fa il magistrato che ha detto oggi. Aspetta, che ha detto. Benissimo, perfetto. C'è un signore che fa il magistrato che ha sotto mano tutte le statistiche sui reati oggi, che ha detto una cosa o no? l'ha detta o no? Ha detto che questo qua è una specie di terrorismo, è il nostro terrorismo. Esiste una città dove uno dice noi qui abbiamo un nostro tipo di terrorismo? Non esiste, amico mio. Io lo dico a te che sei napoletano, io ti voglio bene, ti abbraccio, non ho nulla contro Napoli, ma ci sono alcune cose che esistono solo a Napoli, sì o no? Lo vuoi ammettere? Sì, certo. O no? Oh, ma io solo questo dico, io solo questo. Solo che io faccio parte della maggioranza silenziosa. Silenziosa, pure tu fai parte della maggioranza, capisci? Silenziosa. Vabbè. Certo, perché... Ma sì, perché noi, sicuramente sei onestissimo tu. Di fronte a un reato, che cosa faresti tu di fronte a un reato? Vai a denunciarlo oppure te la fai sotto? Perché magari hai paura di non essere difeso, hai paura che ti sparano, che ti segano le gambe. Dipende dalla situazione, bisogna, secondo me, trovarsi bisogna trovarsi dentro una situazione di questo tipo. Sì, certo, io ho detto pure quella volta lì, ho detto pure che uno che assiste ad una cosa non è necessariamente costretto ad andare a denunciare, ma se tu vedi sparare una persona poi alla fine magari o no? Magari cioè se tu sai che uno fa il camorrista, se tu sai che uno fa il camorrista, vai a denunciarlo, sì o no? Ma no, perché sai no, cosa? Vedi, perché, no. Ma no, ma perché tu se vivi in un certo modo non certe cose non le fai precise, non le sai, non puoi entrare nel merito di certe cose, perché se fai un tipo di vita differente da quello, tu quelle cose non le conosci bene, quindi non ho non capito, puoi. Ho capito. Lorenzo da Lugano, vai, Lugano, Lorenzo, da Napoli a Lugano. Ciao. Dimmi Lorenzo, Giuseppe. dimmi. No, niente, io sono Lambre Benedetto, ciao Giuseppe. Allora, ciao Lambre, dimmi. Ascolta, io ho avuto uno zio che è stato in un campo di concentramento a Mauthausen, sì. È stato un internato, poi sì. Grazie allora? A Dio lo... No, volevo solamente dire, non ti rubo, ti rubo solo 20 secondi. Dimmi. Ti sto ascoltando ultimamente, ascolto della gente che inneggia Hitler, al nazismo, queste cose qua. Io a questa gente qua gli augurerei solamente di fare un mese che hanno passato questa povera gente qua. Va bene scherzare su tutto, ma quelli che parlano di queste cose sono veramente delle teste di cazzo. Ma io sono d'accordo con te, dopodiché, come sai, io penso al contrario di Parenzo, su questo ci dividiamo. Mentre Parenzo pensa che queste persone vadano condannate per quello che dicono, eccetera, eccetera, io sono per una società, sì, no, può darsi che sia un reato, sicuramente un reato. Io penso invece l'inneggiare a Hitler, per carità, assolutamente, reato ad oggi. Poi. Penso che sia osceno, ma penso anche che sogno, anzi, una società come quella americana dove esiste anche quella tedesca. Dove sono incappucciati i signori del Ku Klux Klan, che sono liberi di dire quello che vogliono e sono considerati, anche se poi qualcuno dice adesso che praticamente sono dei collaboratori di Trump, cosa che non è vera, sono considerati una minoranza che esiste, vabbè, quasi folcloristica, diciamo, fermi lì. Insomma. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da... Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. La Zanzara. Sì, amore? Sì, faccio ascoltare ad Esther del jazz. Invece ascoltiamo la Zanzara. So fine that I really wanna make you mine. Pronto, carabinieri? Senta, chiamavo per quella multa che mi avete fatto perché guidavo col cellulare. No, senta, siccome stavo parlando con la Zanzara. Multa annullata? Ok, grazie. Siamo al top. Beh, Parenzo, è inutile che continui a elogiare i tuoi amici intellettuali. Da ieri sera la Zanzara ha un nuovo idolo, Fissani, il gourmet della figa. Ma è vero che Sebastiano Barisoni va come ospite ai convegni della sicurezza sul lavoro e poi fuma di nascosto in ufficio nei bagni del Sole 24 Ore? Ma com'è sta storia? Andiamo avanti. Questa è una diffamazione aggravata. No, ma lui stesso l'ha ammesso, L'ha ammesso, ha avuto l'autorizzazione naturalmente a mandare in onda questa cosa, altrimenti... no, non è vero, mandi in onda il cazzo che mi pare, ma è vero, lo ha ammesso tranquillamente, candidamente, è vero, vado ai convegni sulla sicurezza ogni tanto, però c'è una novità importante, direi anche una breaking news da questo punto di vista, caro Parenzo. Sì, beh, giusto. Barisoni ha abbandonato molto il fumo ed ha acquistato, o le è stata regalata, gli è stata regalata, non lo so, una sigaretta elettronica. Attenzione, attenzione, come attenzione. Mai? No, non lo so, come mai, non lo so, sarà stato pagato dalle lobby della sigaretta elettronica. Ma no, scherzando. Dico così, magari gliel'hanno regalata quelli della sigaretta elettronica, non lo so, questo sono altri argomenti. Comunque, la breaking news è questa, signor Barisoni, vice direttore di questa baracca, non fuma più alla sigaretta elettronica. Vabbè, capito? È... No, ma questo è importante. Importante dirlo. No, per la salvezza dei bagni, innanzitutto, primo, secondo, per i cazzi suoi. I said, are you gonna be my girl? No, avanti, adesso Mauro, che vuoi? Avanti, Mauro, che vuoi? Dimmi, Mauro, che vuoi? Se mi fai dire quello che devo dire, sì. Sono butto giù. No, no, tu puoi buttare giù quanto vuoi, però. Ma cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi. Non ti sempre come non fai con altri. Allora, ma con altri chi? Di chi sei geloso? Di chi sei geloso? No, no, no, no, vabbè, stiamo parlando. Non sono nessuno. Della gelosia. Perché io sono io e gli altri non sono un cazzo, primo. E poi. Ma che vuol dire tu sei tu? Attenzione, attenzione. Attenzione, aspetta, correzione, correzione sulla notizia. Stai zitto un attimo, correzione sulla notizia d'agenzia. Barisoni non ha smesso di fumare, ha ancora le sigarette. Ma chi se ne frega? Ancora un pacchetto di sigarette. L'ottimo Barisoni. Mauro, allora? Allora, se tu hai un comportamento con degli interventisti, devono essere tutti uguali. Quasi interventisti, ma chi l'ha detto? Io faccio quello che mi pare. Non hai capito ancora, Mauro? Faccio quello che mi pare. Cioè, qui c'è la dittatura. Qui c'è la mia dittatura. Sì, con una piccola differenza. Qual è? E se io non intervengo più alla Zanzara, i tuoi ascolti calano. Come è successo? Parezzo, rispondi tu. Come è successo in una trasmissione che adesso fa parte radio del Mediaset. Sì. Che dal primo e secondo è arrivato quinto. Perché in realtà Mauro, secondo me, ti ama molto. C'è una mia amica, mi ha detto questo, che ormai potrebbe scrivere questa mia amica la fenomenologia della Zanzara. Dice: guarda, sì, secondo me lui in realtà è geloso. È psicologa, no. Lei. Io stai zitto! Stai zitto! Sì, è una psicologa che dice: secondo me, Mauro da Mantova in realtà è innamorato di Cruciani. Sì, può essere questo. Questo essere, quindi sì, è la tema. Essere. Ok? Ok? Devi essere trattato come tutti gli altri. Ma come un pazzo devi essere trattato. Certo, come gli altri pazzi che chiamano. Ma tu sei più pazzo degli altri, quindi sei più disturbato. E diciamo. Allora, se tu non mi permetti di dire quello che penso senza copiare. Ma su cosa? Qual è l'argomento? Per esempio, qual è l'argomento? Vedi? Qual ecco, è? Mi ha scritto il mio preferito, Mauro innamorato di Giuseppe. Allora, prima di tutto fanno la giornata della memoria. Vabbè, adesso no. Mauro, oggi no. Allora, non fare i tuoi deliri. No. Se tu mi metti gli effetti, vado a far culo. Ma perché? Perché ma devi sempre. Io direi la mia. Ma su che cosa? Spiegami. Allora, su che cosa? Fatto la giornata non della tollero, non tollero follie da parte tua, tollero follie ma da altri. Follie? Io ti dico le cose, le statistiche. Statistiche allora, di che? Statistiche di che? Visto che gli ebrei sono stati uccisi. Oh, beh, sì, perché non è vero? Perché non è vero? Vuoi negare questo? 6 milioni? 6 milioni? Se non mi fate dire, non arrivo giù. Io ricordo a tutti che questo signore qui si è definito hitleriano. Si è definito, ammiratore di Hitler. Ma perché io non posso avere una mia scelta? Ma sì, ma d'accordo, noi possiamo giudicare questa scelta una cosa da pazzi, sì o no? Ma ti ho detto! Per esempio in America, sì, anche in Germania hanno che dopo, non una, dopo un processo, hanno detto se qualcuno vuole essere un nazista è giusto che lo passa fuori in Germania. Di due settimane fa. Qual è il problema? Basta che non faccio. Vabbè, ma al di là della Germania, sì, ho letto qualcosa, eccetera. Ma al di là di questo, allora, ma tu cosa? Se uno si definisce nazista, non puoi commentare la giornata della memoria, è una contraddizione in termini. No, resta nazista voglio, e basta. Voglio che la gente sappia. Ma cosa? Non si informa. Ma cosa? Cosa allora, non si informa su cosa, Mauro? Allora, su cosa? Se mi piace dire, porca. Ma no, ma non sei uno storico. Vabbè, comunque dimmi, no, avanti. Però mi informo. Dimmi. Però mi informo. A parte la storia, la scrive come gli pare piace quel curriculum. Poi? E quella è una cosa che a me dà molto fastidio. Però, tu guardi, ok, hanno ucciso gli ebrei, va bene. Ma De Benedetti, De Benedetti ha qualcosa a che fare con l'uccisione degli ebrei, secondo te? No, quello no. Quello allora, no. Come intanto, fa, infatti, la notizia che le venne dette le macegaglie avevano pigliato i soldi, l'ho data io già da 5 anni fa. Ma data, con che notizia dai? A chi hai dato? A chi l'hai data questa notizia? Vai, a chi? Pazzo, okay, se l'avrò letto un miliardo di volte, ma non cosa? Ti ascoltare i miei interventi. Ma cosa? Che De Benedetti e la Marcegaglia erano debitori del Monte dei Paschi? Sì, signore. Ma sì, non signore, credo, non credo che tu sia la fonte di questa roba qua, caro Mauro, non credo. Allora, poi io quando sono venuto a cena 2 anni fa. Dove? Ma dove? Non è una notizia di dominio pubblico, quando sono venuto a cena. Perché dove? Tu hai a cena con questo qua? Sono andato a due, Milano, tre... al primo, al primo. Vabbè, ma allora che vuoi? Hai pagato la cena, sto poveretto? No, se l'hai pagato da solo. Ho portato le fotocopie, c'avevo la fotocopia. Questo girava con tutte le fotocopie di ritagli di giornali. 27 gennaio. E come sai quelli psicotici dei film americani, quelli che vogliono uccidere il presidente? Hai presente dei film degli psicotici, quando c'è lo psicotico americano? Ma cosa è successo? Ma è 21 anni fa! 21 anni! E Kennedy? E la commissione Warren? Viene scalata dal gruppo dei Benetti. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? E secondo te? Chi lo piglia i soldi? Deve non mettere la mazzagaglia. E li fatti? E li fatti? È uscito. E Pasolini? Moro, e chi l'ha ucciso Moro? Moro, chi l'ha ucciso Aldo Moro? Ascolta, non cambiamo discorso. No, ma Aldo Moro, riveliamo una volta per tutte, allora, perché la gente deve sapere, Aldo Moro. È stata una giornata della memoria, ok. Ecco. Vabbè, ma chi è se ne frega? È la giornata della memoria dei suicidi in Germania del 30 e 32 e di quelli del 2011, 116 suicidi. Grazie all'ebreo Monti, questa non è memoria. Ma cosa? Non è vero, non è ebreo. Non è vero. Non è ebreo Monti. Barisoni? Non è ebreo Monti, ma tu sei fuori. Ma le assicuro, è dichiaratamente ebreo. Ma non è vero! Ma come no? Ma figuriamoci! Ma chi se ne frega? Ma si può dire, ma io lo conosco personalmente. Ma non è vero! Ma non è vero! Ed è cognato di Benedetti, che tu non è cognato. Sei io pazzo! Ma dai, sei pazzo! No, come si chiama? Napalm. Ma non vogliamo occultare niente! È Napalm 51, personaggio di Crozza, è uguale. Anzi, credo sia ispirato. Come mai che quando dico poi. Scusa, mettiti lì col computer, adesso faccio io il rumore del computer. Tutto. Parla, dai. Mauro, parla. Ma perché vuoi negare l'evidenza? Quale evidenza? Pezzi di merda, rotto il culo, infami! Che ne pensi di Gentiloni? Vai, che ne pensi di Gentiloni? Mauro. Per me, che ci sia o non ci sia, è trasparenza, cioè non esiste. Non esiste. Come lo consideri? Uno che va in giro 2-3 anni fa. Non abbiamo pagato nessun riscatto, 15 milioni di euro. Ebreo pure lui? No? Allora come faccio a credere a un precedente che ha detto delle balle? Ha detto delle balle. Come lo consideri? Un infame? Un pezzo di merda? Come lo consideri? Un bugiardo. Allora, ma secondo te è normale che vengano sorteggiate? Sì. E Prodi? E Prodi? E Prodi? È ebreo il Papa? E Prodi? Ascolta, chi è che ha fatto il complotto nel 2011? Chi è il complotto? Complotto del 2011? Ah, contro Berlusconi. No, ecco, giustamente, no, questa mia amica mi segnala, ecco l'equivoco, bravissima, non dico il nome, ma bravissima. Napolitano che... La moglie di De Benedetti si chiama Monti di cognome, sì. E lui pensa che siano parenti, che tenerezza, no, brava, bravissima. Che bisogna fare con Napolitano? Ucciderlo? Ma andrebbe processato e fucilato. Tutto infame. Napolitano processato e fucilato. Ciao Mauro, ciao. No, ascolta. Mamma mia. Andiamo avanti. Volevo dire che io sono Giovanni di Foggia, sono il fascista non è un reato. Ecco. Senza controllo sanitario. Allora ragazzi, grande momento serietà adesso alla Zanzara, eh? Sì. Grande momento serietà. È con noi una persona che è stata al centro di polemiche, soprattutto ottimo, negli ultimi giorni. Molto bene. Ma ha una vita che tutti, o una storia che tutti conoscete sicuramente. Io devo dire la verità, Parenzo, in tutta questa storia che riguarda la sua partecipazione ad alcuni gruppi Facebook, lo dico sin dall'inizio. Ho seguito bene la storia. Lo difendo a spada tratta. Io meno, anzi, tu meno. Per nulla. Io però lo difendo a spada tratta. Ma poi ti spiegherò perché. Raffaele Sollecito, buonasera. Buonasera. Buonasera, salve. Come stai? Buonasera, come stai, Sollecito. Raffaele? Benino, si combatte con la vita quotidiana. Beh, quello amico mio, sì, quello amico mio tutti. Però partiamo da un'altra cosa, poi andiamo su quell'argomento lì. Quanto hai chiesto di risarcimento allo Stato per ingiusta detenzione, eccetera? Il massimo consentito calcolando il numero di giorni che sono stato detenuto, cioè 516.000 euro. Ecco, ma è automatico che tu, molti dicono, è una vergogna che sono lecito. È l'ingiusta detenzione, perché è un suo diritto, quindi... Sì, ma è una cosa automatica oppure c'è una corte che deve decidere? C'è una corte che deve decidere. Può anche rigettare questa cosa o no? Sì, ovviamente non ci sarebbe poi da ridire, cioè il motivo per cui dovrebbe rigettare una richiesta del genere, visto che sono stato detenuto da innocente. Poi chi fa polemica ovviamente pensa che io sia colpevole, ma evidentemente non ha seguito il processo. Vabbè, tu sei innocente, al di là ormai di questo io non mi sono fatto nessuna idea sul processo, l'ho seguito ma non dirò l'idea. Innocente però, fino a prova contraria. No, non c'è dubbio, no, ma non dirò l'idea che mi sono fatto io della verità giudiziaria e della verità fattuale. Ma non è questo il momento. No, infatti non mi interessa, dico che da ex imputato ha diritto, perché l'istituto dell'ingiusta detenzione... Ex detenuto soprattutto. No? Ex imputato ed ex detenuto ha assolutamente diritto a chiedere allo Stato un risarcimento, visto che per la legge italiana è innocente. Tu hai detto, credo la BBC, che hai chiesto 516.000, che è il massimo del risarcimento possibile, no? Quattro anni in carcere, sì, giusto? È il massimo per quello che riguarda la mia detenzione. Per quello che è successo nei 10 anni di processo, non, insomma, sarebbe da vedere se si può fare un processo a parte civile, ma io adesso sto chiedendo i soldi per l'ingiusta detenzione. Cioè, ha speso lei per la sua difesa? Quanto ha speso in tutti gli molto anni? Molto di più, immagino. No, glielo chiedo, non lo so. Sì, ho speso molto di più. Un milione di euro? Abbiamo venduto 2 appartamenti e abbiamo speso più di 1.000.000 euro, quasi 1.300.000. Cioè, per cui alla fine siete... mettiamo che ottenete 500.000 euro, mezzo milione, otterrete 500.000 euro, ne mancherebbero comunque, cioè, 400-500.000 per pareggiare le spese. Sì, sì, però il discorso è che siamo ancora in debito di quasi 400.000 euro, quello è il problema più grosso. Almeno da coprire i debiti, e ovviamente il resto mi servirebbe un po'. Cioè, sarebbe uno sarebbe uno scandalo se non vi dessero tutti questi soldi, cioè i mezzo milione di euro, secondo te? Beh, è uno scandalo, sarebbe un danno alla beffa, cioè oltre alla beffa il danno. Io sono stato detenuto ingiustamente per una teoria accusatoria che non aveva nessuna ancora di salvataggio. Vabbè, questi poi sono i processi che hanno accertato il fatto che tu sei innocente, certo. E tu dici che c'è stata quasi una cosa persecutoria nei tuoi confronti? Quello è sicuro, chi ha seguito il processo lo sa perfettamente. Cioè, ti hanno preso di mira te e l'altro? No, hanno preso di mira le prime persone che si sono trovate davanti. Beh, eravate lì quella sera. Alla villetta, sì. Perché alla fine ci credevano all'inizio. Per quello che riguarda il teorema accusatorio, però credevano a qualcosa che era totalmente falso, e purtroppo non hanno dato il tempo nemmeno a loro stessi di verificare effettivamente. Comunque, tu non escludi la serietà delle loro accuse. Tu non escludi che addirittura farete un altro processo per ottenere altri soldi? Non lo escludi questo qua? No, cioè, chiederete un risarcimento? Adesso sinceramente non so nemmeno esattamente come funzioni, ma per adesso noi chiediamo soltanto questi soldi. Che sono pochi, perché, tu dici. No, mi servirebbero semplicemente per tappare il buco del debito. Senti, allora, la polemica che è scoppiata qualche giorno fa è per la tua partecipazione ad alcuni gruppi Facebook molto discussi. Gruppi scoperti dal Fatto Quotidiano. Sì, in cui in alcuni di questi gruppi... cui tu partecipi, Pastorizia, Never Dies, un altro che si chiama Cazzo Duro, eccetera, eccetera. Questi gruppi, così si chiama questo gruppo, praticamente si inneggia, o si inneggerebbe, adesso non so esattamente... Ce li ho qua davanti alcuni. Si inneggia alla violenza sulle donne. Sono sotto accusa soprattutto alcune tue frasi che hanno un diretto riferimento alla vicenda di cui sei stato protagonista e per cui sei stato assolto. Tu ti penti di aver partecipato a questi gruppi oppure te ne freghi? Sinceramente l'ho fatto per drammatizzare. Adesso in che senso? I commenti erano senso? Semplicemente goliardici, non c'era niente di particolare, erano riferiti a me stesso per il fatto che ero stato chiamato dai giornali knife boy, cioè il ragazzo col coltello, cavolate veramente stupidaggini di questo tipo. Sì. Poi mi pento di aver usato il mio nome pubblico per dire stupidaggini in gruppi di questo genere, ma il problema per me più grosso è che sono attenzionato da gente che si mette lì a fare screenshot su cose che ho commentato nell'arco di un anno e mezzo. Le leggo un passaggio. Un tale Dennis le ha scritto in questo forum su Facebook: maestro, mi insegni come si cancellano le tracce di un delitto, che ho due cose da risolvere? E lei risponde: semplice, ci caghi sopra e nessuno si avvicina. Ovviamente è una risposta stupida, una domanda stupida. Quello lì che ha scritto maestro ovviamente non era serio siccome nella casa di Perugia furono rinvenute anche delle feci in bagno, io credo che forse è un riferimento diretto al processo. Non era un riferimento, le spiego anche perché l'Isteleri si riferisce alla cacca che ha fatto, che l'ha fatta nel bagno, non è riferito a quello. Lui parlava di tracce, ovviamente gli ha dato una risposta stupida, anche molto irriverente, proprio per fare intendere che stava... Ecco, ma la domanda è questa, sollecito, può essere, diciamo subito, che chi ha fatto quegli screenshot, chi ha recuperato queste storie, non è da condannare. Tu sei un personaggio pubblico e dunque, amico mio, ti devi abituare al fatto che qualcuno vada a recuperare le cose che scrivi e commenti sulle cose che scrivi. Poi i commenti possono essere giusti o sbagliati. In quei gruppi ci sono praticamente migliaia di persone che non hanno niente a che fare con la violenza sulle donne, dicono odio. Ma quando lei scrive di tutti i generi. No, ma questo non però c'è dubbio, lei però perdoni, una cosa di cattivo, io posso dire semplicemente, con rispetto per la sua vicenda giudiziaria per cui lei è stato assolto e le auguro di ricevere il risarcimento. È una cosa di cattivo gusto secondo te? Che no, ma ti leggo questo che è veramente di cattivo gusto. Un ragazzo le chiede, è emozionato perché sta chattando con lei e lei risponde: hai diverse opzioni, puoi segarti violentemente vedendo un porno con Amanda, puoi dire ai tuoi che ti scrivo e ti senti in pericolo, puoi creare un memo con la scritta mi solleciti. Cioè, capito che voglio dire, vedendo un porno con Amanda, cioè io dico, che risposta è questa? No, è una stupidaggine, ovviamente non esistono porno con Amanda. È una stupidaggine avere evocato Amanda in questo contesto. Non ha diritto anche lui lui è una persona libera. Lui ha diritto all'oblio. È una persona all'oblio per la legge italiana. Però non andare su queste cose qua. Lui è una persona libera, che può fare quello che vuole, essere irriverente, dire le parolacce, dire delle porcherie, parlare di violenza sulle donne, cosa che non fa, scherzare, utilizzare tutti i termini possibili. Lo massacra per questo, io per questo lo difendo. Non ho capito perché, che ha fatto? Cioè è innocente, ok? Può dire quello che vuole, può utilizzare le parolacce, sì o no? Tu sei sul cattivo, ma le parolacce certo che può utilizzare, è il cattivo gusto del contesto. Di aver avuto cattivo gusto a citare Amanda? È un contesto di cattivo gusto, io alla fine mi sono tolto da quei gruppi perché evidentemente se mi devono massacrare per queste stupidaggini ovviamente non ne vale la pena, questo è chiaro, quindi mi sono tolto, visto che non è nemmeno mi porta niente stare in quei gruppi. Ci sono stato perché mi hanno invitato degli amici e ho diversi amici che ci sono, poi c'è tanta gente sconosciuta ovviamente che si è divertita a screenshottarmi e a farmi commenti dietro di questo genere. Quindi il tuo avvocato ti ha consigliato, che è l'avvocato Buongiorno peraltro, ti ha consigliato di levarti da quei gruppi, sì o no? No, lei non mi ha detto assolutamente niente, mi sono ritirato io perché ha detto tanto se io ci sono stato per gioco, tanto vale che se per gioco mi devo assorbire questo tipo di polemiche, per me è totalmente inutili, perché poi alla fine, come dicevano, non è che ho fatto niente di che, però visto che sono così tanto attenzionato è meglio evitare. Allora fermo un attimo che c'è la pubblicità, poi torniamo. Raffaele Sollecito che si difende sulla vicenda dei gruppi a cui ha partecipato. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. La Zanzara. Allora, io mi sono fatto un'idea, ragazzi, di questa vicenda di Sollecito che stiamo raccontando, che per carità la critica di Parenzo è assolutamente legittima, io so che lui non ha pregiudizi nei confronti di questo ragazzo, il quale ha passato in galera 4 anni. Non ha alcun pregiudizio nei confronti di Sollecito. È stato in galera 4 anni, ha pagato, secondo me, ingiustamente per una colpa che non ha commesso, almeno se dobbiamo credere alle sentenze. Se poi uno crede che sia colpevole è un altro discorso, quello è un altro discorso. E lo... mettono in croce, lo mettono in croce perché ride e scherza. E ride e scherza, si diverte anche sulla vicenda di cui è stato protagonista. Questo fa schifo, se posso permettermi. Cioè, è brutto, perché brutto. Non vuol dire brutto esteticamente. Capito, ma cosa vuol dire? Perché non può scherzare su questa cosa? No, uno che è stato assolto non può scherzare su questa cosa? Per me, in generale, su un delitto, l'umorismo nero, allora, su un delitto mi fa poco sorridere. Ma il fatto che un protagonista, per carità, assolto su un delitto, faccia delle battute su Amanda, cioè, quello mi fa abbastanza orrore, se mi posso permettere di dirlo. Poi dopo rimane il suo diritto a chiedere i soldi per il risarcimento, appunto. Quindi voglio tenere distinti i piani. Umanamente, sì, ma c'è anche la libertà di farsi ma c'è anche la libertà di fare gli affetti. Sacripante, c'è la libertà di dire che se sei stato al centro di una vicenda giudiziaria ancora dici vagane, perché tu non credi che ci sia, che sia stato solo il mio, parere. No, ma il mio parere sulla, io infatti non ne voglio parlare, perché voglio dire, io mi fido, io sto alla sentenza dei giudici, dico che c'è una verità giudiziaria, poi ci può essere una verità fattuale. E lui non deve scherzare su questo, secondo me non dovrebbe scherzare. Sarebbe su questo. Sarebbe di buon senso, non di buon gusto, anche da parte sua, non fare battute su una cosa che l'hanno visto comunque suo malgrado protagonista. Ma poi dopo di che, ragazzi, che dici? Sì, ecco, sollecitalo su questo. Però. No, guardi, penso che qualunque essere umano faccia ironia sulle proprie esperienze, anche se siano tristi. Che io sia stato preso, tra virgolette, e portato al pubblico con questi commenti, ovviamente mi dispiace, non avrei mai voluto che fossero resi pubblici. Ho capito, però lì quindi sono. Questo mi ha fatto ovviamente tendere per togliermi da questi commenti. No, questo lo so, però è un tuo diritto scherzare sull'omicidio di Meredith, oppure no? Pensi che sia un diritto scherzare anche su quella roba oppure no? Perché qui leggo, entro in un negozio, no, è scritto tu. No, aspetta, no, c'è il rispetto per i familiari. Aspetta un secondo, entro in un negozio di pentole, chiedo, avete un set in rame? Il commesso mi guarda, ci pensa e fa, per i set di coltelli dovresti rivolgerti al negozio a fianco. Ovviamente è una battuta stupida su una cosa che è successa a me. Non ho parlato di Meredith, non ho parlato di Amanda, ho parlato di però me, lo hai fatto in altre occasioni. Per esempio hai messo pollici all'insù quando qualcuno posta il fotomontaggio di Amanda con di Amanda con il cartello che recita è stato il negro, tra l'altro. No, ho messo un dito medio, ma era per dire va col paese, cioè. Altre volte però hai comunque quella roba che ha letto prima Parenzo, hai risposto a un tale Leonardo che scrive: posso farti una domanda? E sollecito, se si tratta di Neri chiedi a Falanga, se si tratta, che è l'amministratore del gruppo, se si tratta di Amanda chiedi al 118, per il resto dimmi pure. Cioè comunque fai riferimenti diretti a protagonisti di quella vicenda. Quando mi hanno fatto quella domanda era perché era su un post sempre riferito alla mia vicenda. Quindi ha detto, se mi devi parlare di cose che riguardano altre persone nella vicenda, in modo stupido gli ho risposto, fai riferimento ad altre persone. Una tale Giulia ti chiede di non essere crudele quando l'ammazzerà e tu rispondi, non ti preoccupare, sarò gentile e indolore. È lei che mi provoca con queste stupidaggini, gli ho risposto in maniera più diciamo, tranquilla. Ma lei non dovrebbe neanche esserci in questi gruppi. Ma perché, capisci? Non dovrebbe questo essere in questi gruppi? Non ho capito, io questo non capisco. Perché ragazzi, allora, Alessandro Manzoni diceva, il buon senso se ne stava nascosto per paura del senso comune. Allora, mi pare che in questo paese si sia perso il gusto del buon senso. Cioè, se un ex imputato... È innocente! Ma questo gli, innocente. Questo gli dà diritto di scherzare su un reato in cui c'è un morto che ancora è una famiglia. Ma ci sono altri problemi, certamente. Vabbè, ci sono altri problemi, però parliamo di questo. Intanto c'è anche la finanziaria, c'è la UE, c'è la Brexit, ovvio sono altri problemi. No, ci mancherebbe altro. Questo non è un problema, secondo me. Ma quello d'accordo, riguarda te, certo, riguarda una vicenda di cronaca. Posso usare una parola che non ti piace, Cruciani? Buon gusto. Cioè, ecco, questa è una parola che invece a me piace. Il buon gusto. Sì, lei manca, caro sollecito, lei manca di buon gusto. Poi dopo, per carità, sarà. Lei è innocente, io posso lottare e dire che lei ha tutti i diritti di avere il risarcimento per l'ingiusta detenzione, quindi lo voglio ripetere ancora, ma lei è una persona che ha cattivo gusto, pessimo gusto per il fatto stesso. Come rispondi a questa accusa? Va bene, è così. Che le posso dire? Io non le avrei mai voluto che quei commenti diventassero pubblici. Ho capito, però questo, amico mio, sei un personaggio pubblico, comunque se qualcuno li tira fuori non è colpa. Mi avete crocifisso perché io non ti crocifico per niente, io da parte mia no, è Parenzo che ti crocifica. Chiunque avrebbe fatto quei commenti, per me hai tutto il diritto di avrebbero soltanto tutti riso e finito. finisce. Beh, certo, lì. Ma ho capito, amico mio, però tu sei sollecito, non è che sei un quisco del popolo qualunque, sei protagonista di una vicenda. Un quisco del popolo, ottimo. Cioè, non è che sei un passante qualsiasi, sei il protagonista di una vicenda che è stata al centro. Vabbè, qualche volta mi sono sognato di non esserlo, di pensare, infatti, che fosse una persona comune, ho sbagliato. Esatto, beh, questo è il problema, perché lui, siccome vuole scherzare, per me ha tutto il diritto di scherzare anche su questa roba qui, anche per esorcizzarla, anche per tenersene lontano, anche per sentirsi una persona comune. Quella cosa, no, che tu ma chiami, il buon gusto non ha nulla a che vedere con tutto questo. Se una persona comune scrive quei commenti, per me è una persona comune di cattivo gusto. Vabbè, lo posso, sì, dire, dici, ecco, allora, a maggior ragione. Cioè, se uno per sentirsi una persona comune scende nella gola di questo voglio finire con questa cosa. È credibile secondo te che Rudy Gedè sia l'unico colpevole della vicenda di Meredith? Sì, secondo me è molto credibile, date le dimensioni della scena del crimine, le tracce lasciate sulla scena del crimine e anche quello che riguarda tutto il materiale medico legale. E come giudichi questa sua retromarcia recente negli ultimi mesi di Rudy Gedè? Una sceneggiata? Marcia, non so a cosa si riferisce. No, quando lui ha detto no, un po' fatto marcia indietro rispetto alla confessione, diciamo. Non so esattamente a cosa si riferisce. No, è l'ultima cosa di Rudy Gedè, ma lasciamo perdere, dai. Cioè, comunque tu pensi che sia l'unico, è credibile che sia l'unico colpevole di questa storia? Allora, secondo me è stata una sola persona, perché questo a livello della scena del crimine è, diciamo, quello che ti dice la scena del crimine. Sì. Poi effettivamente è più plausibile che sia stato lui, perché tutte le tracce sono sue, e poi del resto... Senti, come campi tu adesso? Che fai per io campare? Io ho un'azienda informatica, l'ultimo progetto che abbiamo fatto si chiama Sun Ticket. Ma lavori ancora a Mediaset? Avevi preso un lavoro a Mediaset, se non sbaglio? No, quello lì non era un lavoro, era... Uno stage? Diciamo che mi avevano dato questa opportunità di parlare, di commentare altri casi, sì, e l'avevo presa bene, perché in fondo, dopo tutta l'esperienza che avevo avuto, potevo... Però non li commenti più, che i casi di cronaca nera? No, ma è da un pezzo ormai. Vabbè, che non succede più. Ciao, adesso ciao. Mi sto dedicando insieme a delle associazioni di criminologia anche... ad aiutare le persone nelle carceri. Va bene, ciao Raffaele, ciao. Saluti. Ciao. Ah, ragazzi. Allora, Leonardo da Padova, dai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Io volevo parlare di quella questione relativa al profugo suicidatosi nel Canal Grande a Venezia, perché io lo scorso Ferragosto ho salvato un profugo che stava annegando, era un ragazzo sedicenne in Friuli, a Cividale del Friuli, nel fiume Natisone, si era tuffato, si è rotto una vertebra tuffandosi, in un punto anche abbastanza pericoloso, e mi sono lanciato per soccorrerlo. Allora? Bene, lui... preso dal panico e anche dalla rottura della vertebra, mi stava tirando giù e stavo affogando pure io. Per fortuna che è intervenuto altri due ragazzi e in tre siamo riusciti a portarlo a riva. Ma che vuol dire questo, scusa? Questo volevo dire che quelli come Parenzo, ma come altri che hanno accusato i veneziani di razzismo, non lo aiutano, io perché non ho era accusato nero, di eccetera, razzismo, eccetera. Ho detto che magari qualcuno dalle ricostruzioni ho capito che non è stato avvisato. Non ho detto che qualcuno si doveva buttare, ho detto che magari potevano avvisare non ho capito, velocemente. Adesso tu dici che non, praticamente non lo rifaresti? Io, quella volta lo rifarei perché è andata bene, ma la prossima volta, se domani mi capita sul Canal Grande di vedere un italiano o un nero che sta affogando, ci penso 10 volte, soprattutto adesso che è a gennaio, in cui l'acqua del Canal Grande è a 7 gradi. Ma io su quello mica condanno nessuno, dico che magari si poteva avvisare. Il Canal Grande non è esattamente un canaletto piccolo dentro Venezia, una piccola calle di Venezia, è un posto dove passano un sacco anche di barche, di cose, dare l'allarme, urlare, dire attenzione, c'è una persona in mare. Ecco, questo sì, dico, non sì, è che dico che tutti si devono buttare. Dalle ricostruzioni mi sembrava di capire che invece ci fosse una sorta di indifferenza, ma magari mi sbaglio rispetto a quello che ho letto, questo ho detto. Ti sbagli Parenzo, perché tu non ti lanceresti in ogni caso probabilmente, ma perché probabilmente sotto e non ti lanceresti. Mi saluti tutti a casa sua. Mi saluti, ma chi lei, chi cazzo è? Hai capito? Ma lei, hai capito? Chi è? Questa è la questione, perché ma tu lei, e la gente come te è da dei razzisti a quelli di Venezia. Ma lei chi non è? C'entra niente. Ma lei che cosa sta dicendo? Io sto dicendo quello che sto dicendo, ma che lei, non c'è nulla di scandaloso se uno cosa non sa ricetta di me lei. E infatti ho detto io questa, lo so benissimo. Ho detto esattamente questa stessa già, cosa. E lei si capisce, posso dire, lei. Si capisce che lei è un coglione, posso dirglielo alle 20:10. Io penso che si e possa lei usare lo è questa parola. Lei è anche un cagasotto, oltre che coglione. No, lei non sa niente di me, lei è un coglione. No, lei è anche un cagasotto. Lei è un coglione. Ma glielo dico, smetta anche di insultare i veneti. Ma non sto insultando i veneti. Ma che c'entra i veneti? Io insulto lei che è un coglione. Ma vede, con quello, non neanche con aggressività, lo dico anche con dolcezza e con passione. È un coglione. Cioè, il e tono lei della voce è un cagazzotto, non è, lo dico con altre tono, il non tono ho della voce non è arrabbiato, è una constatazione. Fermi tutti. Senti, fermi anche la mia è una constatazione. Dico solo che i veneziani non sono razzisti come quelli come lei li dipingono. Fermi lei tutti. È un coglione. Allora, prima ragazzi ho detto una piccola stupidaggine che Gedea aveva confessato, semplicemente ha fatto il rito abbreviato all'epoca e fu condannato come certo unico colpevole, non ha mai confessato, questo sia chiaro. Felice, provincia di Bari, vai. Allora scusate, mi potete dire perché da quando sono nato, quando sono piccolo, ci propinano sta storia della giornata alla memoria ogni anno. tutte le volte. Beh, la giornata alla memoria, la giornata per ricordare l'Olocausto, che è una cosa grossa nella storia del mondo, non è una cosa piccola. Io non amo in generale le giornate, non amo. Ma è quello solo in generale. Quelle di campionato ami tu, esatto, diciamo. Esatto. Questo lo so perché allora, sei un ami le giornate di campionato, ma questo voglio dire. No, le amo pure io da buon tifoso romanista. No, ma il problema non è cosa, tanto ragazzi, quello. Io in generale non amo le giornate della memoria, le giornate del ricordo, le giornate di quello. Per non cui le amo neanche io. Ma siamo d'accordo sul fatto che questa cosa è diventata un po' ripetitiva, un po' simile. Vabbè, ma quello è normale, ogni anno per forza è ripetitivo. Una cosa che c'è ogni anno è ripetitiva. Per definizione è ripetitiva. Guardi, che chi deve ricordare non sono io che ho avuto una nonna che è stata in campo di cocina, non ho bisogno di ricordare. Io so esattamente. Le persone cos'è che non sanno nulla, dai. È una cosa che serve per la civiltà di un paese. Ma perché ti sei rotto le palle di questa cosa? Spiegami. Chi non lo sa? Chi non lo sa, è diventato un tabù, non se ne può parlare. Ma non di cosa? Ma la di cosa? Shoah, non si può dire. Ma come ma io, chi l'ha detto? Si diventa razzisti, ragazzi. Ma facciamo una giornata della memoria per i poveri palestinesi ammazzati nei campi profughi, o no? Ma che c'entra? Questo sono riguarda cose la nostra storia europea, ma riguarda scusa, la nostra vita, c'entra? Riguarda che cazzo sta dicendo, riguarda quello si può però, fare, certamente, ragazzi, ma riguarda diverse la vita del tuo paese, questo, riguarda la storia del tuo paese, riguarda il fatto che magari tuo nonno è stato un complice delle leggi razziali, non ha detto non un cazzo nel 38. Ma non è stato nessun complice, non è stato, quello è un problema del tedesco, se sei tedesco devi portare... Ah, in Italia non c'è... Ah, ecco, bravo, questo qui mi pare che ha bisogno di studiare. No, però scusa, ma cosa ha bisogno di studiare, ragazzi? Non c'erano campi, non c'erano dei campi in Italia? La risiera di San Sabba, ma lei non l'ha studiata? Che la risiera di San Sabba, lei non allora sa dove si trova? Le foibe, allora, ma perché mi risponde con le foibe? C'è una vergogna, le foibe, ma che c'entra con infatti questo? C'è una giornata ma perché per mi foibe risponde ma con tutti, le foibe? Che c'entra? Sì, vabbè, sulla giornata delle foibe non ci hanno fatti film. Ma che c'entra? Ma cosa c'è stato un film di Martinelli famosissimo? Ma che c'entra? Io credo soltanto che la non sopporti gli ebrei. Non sopporti gli ebrei. No, questo è. Non sopporto un parolone, credo soltanto che la vittima si è trasformata in carnefice. Ecco appunto, come ha detto quel prete, quell'imbecille di prete là. Ma lei perché non distingue gli ebrei da quello che avviene in Israele? Non ho capito. Lei è veramente ignorante. Questo mi dispiace perché veramente lei è una persona ignorante. Cosa c'entrano gli ebrei che vivono nella diaspora? Ma lei è proprio allora lei è stupido. Allora lei è stupido. Beh, allora no, aspetta, traduco io che magari Parenzo. Aspetta un attimo, traduco io perché uno può pensare anche se non è vero. Aspetta. No, però ha ragione su una cosa. C'è stato l'Olocausto nei confronti degli ebrei, il comportamento del governo di Israele nei confronti dei palestinesi sono due cose completamente diverse. Ma sono due cose diverse. Tant'è che gli ebrei sono in tutto il mondo mentre il governo di Israele sta lì. Quello che io dico semplicemente è che c'è una propaganda ossessiva da decenni. Quale propaganda? Ma di che cosa? Ma quale propaganda? Si è parlato molto di più dell'uccisione dei palestinesi che dell'olocausto degli ebrei. Ma che dici? Ma sei pazzo? Ma come no? I giornali sono stati sempre pieni dei palestinesi uccisi piuttosto che dell'olocausto degli ebrei, perché sono cose più d'attualità. Recentemente, chiaramente, si è espressa l'ONU al riguardo, voglio dire, ci sono state delle risoluzioni. Vabbè, ciao amico mio, felice, ti saluto, mi hai rotto i coglioni. Ciao. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. Quando sento il traffico divento pazzo. La zanzara. Allora Maurizio da Prato, vai Maurizio, vai. Sì, buonasera, no, dimmi. Io mi riallaccio ieri sera quando ascoltavo il babbo della ragazza morta per un'ombrellata da parte della rumena, no? Allora? No, niente, intanto la dignità di questa persona, però quello che mi ha colpito quando diceva che lui si sentiva sconfitto, e a proposito, la pena... a differenza di Parenzo, che per lui li butterebbe fuori dopo due ore tutti, no? Però questa ha preso 16 anni e poi si è ritrovata dopo tot la metà di anni che si doveva fare in galera, per me in galera, una persona che con... Ma di chi parla, scusi? Doina Matei. Ho capito, ma che esempio è? Cosa c'entra Doina col caso di cui stavamo parlando prima? No, io mi riallaccio a questa cosa perché mi ha colpito molto, no? Ma che c'entra questo? Scusa, perché non può parlare di Doina Matei? Sì, no, ma non capisco il link per cui io mi sono scandalizzato. Non ho capito che cosa... Parenzo, non caschi sempre un po' così. Sa dove casca lei? Sì, io casco, sì. Sa dove casca lei? Sì, meglio che non glielo dica dove casca lei, perché diventa imbarazzante, no? È sempre così... buono con le persone, no? Sì, buono, ma buono ma manco non per dico niente. Io e basta, Parenzo. Mi sembra di sentire tanti ragionamenti da parte degli ascoltatori che intervengano. Che insomma, lei, insomma, ma lasciamo fare lei. Questa donna, oltretutto, sono convinto che fra sé e sé è una persona che dopo aver ammazzato questa ragazza per futili motivi, perché sembrerebbe. Allora? Secondo me ci prende anche un po' per il culo, ma guarda questi italiani, dopo che io ho ammazzato invece di tenermi in galera mi buttano anche fuori. Io non so se ci piglia per il culo. Sì, ci piglia per il culo, sì, ci piglia. Purtroppo la legge italiana Ho capito, così. Ho capito, Maurizio. Roberto Pesaro, vai. Roberto? Pronto? Dimmi. Sì, ciao, da Milano però chiamo, non da Pesaro. È uguale, dai, dimmi. Sì, buonasera. Ascolti, io volevo rivolgermi a Parenzo. Eccoci. No, voglio tirare in ballo anch'io Doina Matei, perché quando hanno rimesso in libertà questa romena che ha ammazzato una povera ragazza, semi libertà inutilmente, sì. Ma niente, sempre fuori dal carcere, sì, quello non in c'è ogni dubbio. Caso questa ha postato delle foto su Facebook, sì, roba vecchia al mare anche, sì. aspetta Parenzo ha detto che lei ha tutto il diritto di andare su Facebook perché è in libertà. Non ha offeso nessuno, non ha partecipato a delle... Che è stato assolto. No, ma scusi, come si fa a non capire la diversità dei casi? No, ma chi ha detto che non ha diritto di andare? Però, ma chi ha detto? Qual è il... Bisogna che faccia un po' di... Ma guarda, a me dispiace perché veramente come si fanno a mettere insieme cose che sono diverse? Tu dici che devi fare chiarezza dentro al tuo cervello. Lei deve dire meno cazzate, secondo me. Lei secondo me dice un po' di cazzate. Provo a spiegarmi in 40 secondi. Allora io sto commentando. No, incoerente assolutamente. Io ho detto semplicemente che il caso... Non ho cambiato nessuna idea. Spiegatemi dov'è la relazione tra queste due cose. Doina Matei fa bene ad andare su Facebook. Doina Matei, infatti, per esserci, Doina Matei, per essere andata su Facebook, gli è stato revocato a suo tempo, come abbiamo qui raccontato. Ha ragione Roberto, te lo dico subito. Non avrebbero neanche dovuto fare. Mi fai spiegare? La mia sentenza è questa. Ha preso 16 anni, ti fai 16 anni che sono anche pochi. Non c'entra niente. La mia sentenza è questa. Io criticavo il buon gusto di Sollecito, che ha diritto ad avere il risarcimento per quello che ha subito. Non siamo discutendo di rispetto a dei commenti. Stiamo discutendo prima dei commenti che abbiamo letto, sì, che lui ha fatto, però tu evocando dici l'omicidio, che tu hai detto l'omicidio che ha avuto di Perugia. Tu hai detto che ha avuto cattivo gusto. Invece Dorina Mattei ha tutto il diritto di andare su Facebook Dorina Mattei, a farsi vedere però, in bikini personalmente, mentre ha ammazzato una persona. Dorina appunto. Mattei personalmente non ha offeso nessuno, cioè non il padre si è sentito offeso da quelle foto in bikini mentre ha ammazzato pensava, la figlia con la punta dell'ombrello. Non ha fatto commenti dicendo guarda che ombrello che ho, ti ricorda qualcosa? Vabbè, ha avuto l'ingenuità. Oh, no, ascoltami. Non si è fatta fotografare capito, con l'ombrello capito, dicendo ma guarda l'ombrello. No, si è, si è fotografata in modo assolutamente ingenuo, come farebbe qualunque ragazza. Ma era un'offesa per il padre l'ha interpretato. Non come l'ha fatto con quell'intento, né credo sollecito partecipi a quelle chat con l'intento di offendere nessuno. Io ho parlato di buon gusto e cattivo gusto e basta, lì mi sono fermato. Roberto. No, ascolta, Raffaele Sollecito è stato assolto, quindi tu quindi può fare qualunque... lui non c'entra niente con quella faccenda. Hai capito? Infatti, chi ha mai detto il contrario, Somaro? Ma chi ha mai detto che magari scherzarci sopra? E ho il diritto. Invece Dorina Mattei. Infatti ho parlato di buon gusto. In e infatti Romania, ho parlato però, di buon gusto e di cattivo gusto, che deve è una cosa diversa. In Romania. Avanti. Non in Italia, dove sono negli alberghi. Ciao Roberto, hai ciao. Capito? Ah, in ciao, Italia ciao. Le carceri sono negli alberghi. Vabbè. Va bene. Allora, nei giorni scorsi ha parlato questo signore, caro Parenzo. Si chiama Max. Chi è Max? Max da Rimini. Non so se da Rimini, dalla Romagna. Questo ha detto: io con i miei ragazzi di San Marino, cosa abbiamo fatto? Eravamo giù a Campitignano, abbiamo pulito il paese, avevamo l'attrezzatura che non c'era neanche tutta la regione, abbiamo portato via dei bobcat, ne avevamo 6 in tutto di turbine. Se ci davano i permessi, in 3 ore liberavamo il paese come abbiamo fatto a Campitignano. Perfetto. E il sindaco ha detto, guarda, queste sono le istituzioni. Mi vergogno a essere italiano. E adesso rompete il cazzo alla televisione a dire che sono bloccati. Istituzioni di merda, avete rotto il cazzo. Gli italiani vi devono prendere a sbadilate nella schiena quando passate. Chi è andato a fare il carosello per prendere solo il serbatoio dei voti. Noi andiamo gratis, mettiamo di tasca nostra, non ci vergogniamo a essere italiani e vogliamo bene alla nostra Italia. Voi l'avete rovinata con tutta la vostra burocrazia, andate a fare il culo bastardi, e se mi oscurate non me ne frega un cazzo, chiedo cittadinanza San Marino, andate a fanculo. Chiudi. Ma chiudi cosa? Chi deve chiudere? Aspetta, tu non sai chi è questo? È no. Uno che conosco benissimo, Max, è stupendo, un venditore ambulante. Pronto? Max? Sì? Sono Cruciani. Oh, ciao Cruciani, vigliacco. Ma che hai fatto? Che hai fatto? Sono incassato duro. Ma tu dici che avresti risolto tutto in 3 secondi? Io avrei risolto tutto, sì. No, in 3 ore avremmo liberato Capitignano. E dove sta questo qua? Capitignano è giù all'Aquila, l'Aquila. Io con dei ragazzi volontari di San Marino, degli amici, imprenditori che hanno cavatori, hanno robe varie, siamo andati là, abbiamo dato una mano al comune a liberare dalla neve le strade che erano tutte bloccate. L'altro paese dove volevamo andare era Campo Tosto. A noi sabato pomeriggio non ci hanno fatto andare. Ma capito? Ho capito, perché rompevi i coglioni in mezzo alla protezione civile, lì ai cosi, o no? Secondo te, perché rompevo i coglioni? Perché non volevo niente. Perché bisogna prendere a badilate quelli del governo? Ma cosa dite? Perché qualcuno si vede che non vuole che la manodopera gratuita funzioni. Cosa vuoi che ti dica? Vabbè, ma cosa dice questo qui? Ma chi è? Cruciani, chi è questo? Beh, è un signore. Io sono un cervello disabitato. Ma ecco, uno che vuol bene agli italiani. Un cervello disabitato, appunto. Un cervello dove non c'è niente, mi pare evidente. No, il mio, il cervello è andato via, hai capito? È disabitato, appunto, esattamente. Bravo, si capisce. voce da quel che ha detto. Ecco, un cervello disabitato, ottima definizione di se stesso, bravo. Bravo. Ma non ho capito, ma perché prenderesti a badilate quelli del governo? Giù veramente li prenderesti a badilate in modo faccia? Di parlare? Io li prenderei a badilate perché si devono vergognare chi è che ha messo il bastone tra le ruote e non ci ha fatto andare a vabbè, lavorare. Ma ho capito, ma lascia perdere il caso singolo. Ma lui ci sono gli esperti, quelli che devono lavorare, non è che chiunque prende va lì. Ma che cazzo mi viene a parlare a me di esperti? Avete rotti i coglioni, diglielo. Ma avete chi? Ma cosa fa questo qua? Ma cosa vuole? Ma non l'avevo capito io. Sì, ascolta, vorrei mica che vengo lì e ti prendo per le orecchie te, eh? Eccole qua, mamma, ecco il mio... Ma chi l'è che schi? Ma chi l'è che schi? Ma chi è? Max, non ho capito, tu pensi di essere meglio di tutti i politici italiani che ci stanno? No, Max. Io non faccio politica, io faccio vedere che voglio bene alla gente. Perché tutta quella gente che dice, dammi 2 euro e li danno al telefono del cazzo, io voglio vedere dove vanno a finire questi soldi. Ancora con sta storia, no, ma infatti... No, io ce l'ho con questi qui, sai perché? Ma questi perché qua chi? Ma non può mettere tutti sullo stesso piano? Che mestiere fa sto statista? Ma chi è sto statista? Ma chi è sto statista che parla? Si può sapere? Chi è sto Stiglitz qui? Chi è sto Krugman? Non capisce niente, uno che rappresenta questo è la evidente. Mediocrità del cervello degli italiani, oh, ma di quella parte. Magnifico. Mediocre che ha voglia di fare, perché magnifico. Noi abbiamo voglia di fare, capito? Ma no? Noi chi? Poi di chi sta? Chi è? Noi posso volontari. Sapere chi è sto interlocutore che hai chiamato in questa gabbia? In questo circo? È un venditore. No, che fa? Sei te. Io ma no, ma dico Crugiani in questa gabbia di Mati. Chi è sto qua? Si Max, può sapere chi è Max? Dì che mestiere fai. Ma non voglio sapere chi è. Allora, ascolta, io faccio i mercati, disgraziatamente. Vabbè, mercati questo... che sono alla rovina, ma va bene lo il stesso. Il venditore ambulante. Vabbè, vai, l'ambulante. Cosa c'è, e cosa c'entra il venditore ambulante? Va benissimo, va venditore ambulante, grande rispetto. No, tu stai dicendo che non può parlare di politica, non può parlare di niente. Parenzo, stai dicendo questo. No, ma non mi lo permette... stai insultando, ma... lo stai insultando. Parenzo. Parenzo, ti posso dire una roba senza offesa? Dillo Max. Dillo. Se devo perdere il tempo a parlare con i coglioni, parlo con i miei, ne ho già 2. Lasciami parlare con Crociani. Ma scusa, allora, professore, Max... chiedo scusa, non riesco a capire perché sì. Stiamo intervistando questo. Posso, va benissimo l'ambulante, non ho problemi con gli ambulanti. Posso però capire. Parli di ambulanti, dici, ma parli no, di ma, merce... posso... ma no, ma per carità, può parlare anche. Può, per me, può parlare cioè, anche per dell'uscita esempio, dall'euro. Non Gentiloni, è quello il tema. Ti piace Gentiloni? Ecco, Gentiloni adesso. Gentiloni? Fammi una domanda di scorta, dai, una domanda di riserva. Ma che ne so, e gli immigrati? E gli immigrati? Se vengono in Italia si devono mettere con le mie regole, hai capito o no? Cioè tu dici... Perché c'è il permesso di soggiorno a punti, e chi non paga le bollette, chi non paga un cazzo, fuori dai coglioni. Questo è buono, gli italiani sono stanchi, agli italiani gli porti via la casa. A questi qua cosa gli porti via? No, stanno in albergo. Ah, bravo, ah no, poverini, quelli che stanno in albergo fanno bene, dai. Almeno li teniamo in vacanza, no? Hai capito o no? Chi è questo qua? Si può sapere chi è questo? Al quale sto mi arrabbio dedicando il mio tempo, i miei 8 minuti. Chi è questo signore? Si può sapere con chi sto interloquendo? Chi è? Chi è? È il professore? Chi è questo qui? Ascolta, vuoi vedere? Ti spiego cosa devi fare. Ti capita mai di andare in bagno la mattina? Non è che professore, sì, quando apri la tasta e butti via l'acqua, guardati, per te quello è uno specchio. Professore, le metafore, no? Le metafore di questo è la metafora, sì, ascolta me. Chi è questo con cui parliamo? Chi è? Bravo, chi è questo pontificatore qua? Queste autorità preposte non sanno informare la gente. Arriva lui, non sanno informare la gente. Perché appena è successo il terremoto, caro il mio Parenzo, io ho detto non andate a ho detto. Ma, cosa, ma che cosa vuol dire io ho detto? Io chi che c'è la protezione civile? Io ho detto quando c'è il terremoto. Ma non è il bar dello sport dove c'è il rigore della Juve, c'è o non c'è? Di qualcosa a Parenzo di definitivo. A Parenzo? Guarda, non ho parole, con Parenzo solo parolacce. Ma no, ascolta, vieni in Romagna. Parenzo, vieni in Romagna. Vengo spesso. Noi siamo portatori sani di idiotia romagnola. Però la mattina ci alziamo e lavoriamo. A me piace molto a casseggiare. Se ci danno un badile nelle mani, sbadiliamo per le strade. Questo va benissimo, non è gentile. Questo va benissimo. Ma lo vuoi, le disgrazie, ma lo vuoi dare in testa ai politici tu il badile? Dai, su. No, nella schiena glielo voglio dare. In testa, va bene, nella schiena glielo voglio dare. Va bene, ciao. Va bene. Ciao, Max. Ciao. Ciao, statemelo bene. Ciao. Chiudi. Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. La Zanzara. Niente, mi feci fare un pompelmo d'era un viato, ma tu sapessi che goduria. Chiudi. Sono con una canna in mano. Erba calabrese produzione propria. Sì, sono asmatico e mi fa bene una pianta. Adesso che sono in albergo, bello, pulito, sistemato, sento la radio e mi faccio la canna. Erba calabrese produzione propria. I napoletani contro la Juventus. Voglio fare una rubrica su Carlo Alvino. La Juventus gode della più totale impunità. Senti solo a Napoli. Carlo Alvino. Secondo te, no? Perché Allegri non è stato espulso a Firenze quando ha insultato per tutta la partita? Un motivo molto semplice, perché aspetta. E invece il povero Pioli che è uscito fuori dall'area tecnica l'ha buttato fuori perché? Per un motivo molto semplice, perché l'allenatore della Juventus e loro hanno un regolamento a parte e godono della più totale impunità. Questa è la cosa per la quale io mi dichiarerò per tutta la vita anti-juventino. La Juventus manipola tutto, Carlo Alvino. Perché quella società che rappresenta il potere del calcio italiano gestisce tutto, manipola tutto a suo piacimento. Se sei contro di loro, sei fuori dal gioco. E allora qualcuno pensa che la Pagnotta è più importante, però ognuno fa le sue debite valutazioni. E quindi il buon liberatore ha pensato a Pagnotta, ha pensato alle prossime designazioni, ha pensato alle prossime convocazioni. Da quella partita non è stato più designato neanche a fare o guardia macchina forano stadia. Capito qual è il clima, caro Parenzo, ma adesso dopo le follie napoletane abbiamo con noi una persona che non è un politologo, caro Parenzo, non è un professore universitario, quelli che ami tu. Ha fatto il grande cronista Bernardo Valli della Repubblica, che ha scritto oggi un articolo sulla Turchia. No, molto meglio. Fino a qualche secondo fa, fino a qualche giorno fa, ha fatto il porno star. Ecco, il porno star. Vedi. Come sai, uno al giorno toglie l'ansia di torno. Sì. Toglie l'ansia di torno. Stavo già per preoccuparmi. Si chiama Franco Trentalance. Caro Franco, come stai? Come stai, caro Franco? Buonasera. In ottima forma, avevo lasciato però Parento tempo fa, perché un po' che non ci sentiamo, alle prese col suo membro per trattenere l'urina nella manovra di Kegel. È andato avanti in questo compito? Ma francamente non ricordo. Beh, io ricordo perfettamente, simile. Come no? Ricordo perfettamente. Ah, sì, ero bloccato qui e non potevo andare a fare la pipì. Sì, certo. Ostaggio dello studio della radio, certo. Assolutamente. No, quella di trattenere, rilasciare, trattenere. Esatto, trattenere, rilasciare per aumentare. Te lo ricordi, Parenzo, o no? Non ricordo di aver mai fatto riferimento a questo tipo di attività. Sì, come no. Cioè, lui diceva, non ho capito perché, per aumentare la performance, cosa bisognerebbe fare, caro Franco? Allora, quando fai pipì in qualunque luogo, in qualunque ora, dovresti trattenere e rilasciare, cioè trattenere il getto, rilasciare, così alleni i muscoli pubo-coccigei o coccigei, dipende, e la performance dopo migliora a livello di erezione, di durata e di controllo. Beh, Parenzo, questo è fondamentale. C'è chi propone in onda le ricette e chi noi proponiamo le ricette invece per stare meglio nella vita, che significa significa anche fare sesso meglio. Devi sapere che Franco Trentalance ha annunciato pochi giorni fa l'addio al porno. È un nome di battaglia, immagino. Assolutamente. Come due giorni fa l'addio al porno. Come mai mi è sfuggita? Guarda, beh, ma perché tu conosci solamente le cose che del tuo ambiente, non allarghi la tua mente. Comunque, Franco, quanti film hai fatto in tutto? 4-4-5. Senti, io ho sempre avuto una domanda, ma non hai mai avuto paura dell'AIDS? Sinceramente no, perché come voi saprete ci sono dei controlli veramente seri, cioè qualunque attore o attrice professionista, se non ha un test che sia inferiore a, che sia massimo di 21 giorni, non può lavorare. No, d'accordo, però comunque uno deve avere paura. Ti sarai preso in tutta, per quanto tempo hai fatto il pornostar? 20 anni. Per 20 anni ti sarei preso qualche cosa in 20 anni, dai, su, non, altrimenti... 20 anni, dico la verità, presi una... mi sfugge il nome medico, insomma, diciamo un'infezione. Leggera infezione alle vie urinarie, ma non con una pornatrice, bensì con una babysitter che aveva un viso angelico e sembrava una donna acqua e sapone, e invece tu mi stai dicendo che in 20 anni di film porno l'unica infezione urinaria che hai preso è stata quando ti sei fatto una babysitter? Sì, sì, una faccia d'angelo che giocava con i bambini, però giocava anche con altro. Mi sa. Questa è una notizia, avvisiamo subito il direttore che non mandi in stampa il giornale, per carità. Senti, ma è vero che vuoi fare anche, che ne so, vuoi fare lezioni di educazione sessuale, cioè vuoi fare il coach di sesso? No, io faccio mica per fare il fenomeno, io sono molto tranquillo, però sono una persona curiosa e già da un po' faccio... dei videocorsi di seduzione e di sesso, sì, che vanno molto bene sul web, sì, ma sì, poi mi sto appassionando oltre ai libri che, come sapete... Cioè, qual è la tua prossima... Cioè, quanti soldi hai fatto fino adesso, innanzitutto? Tanti? Pochi? Cioè, diciamolo che... ce l'hai qualche milione di euro? Ce l'hai... No, al milione non ci arrivo. Ma non arrivi al milione? Non arrivi al milione, no. Senti, ma io non ho capito, tu ti sei sentito sempre di avere qualcosa in meno rispetto a Rocco, o no? No. No? Non ti... No, sì, ti sei sempre... Ognuno ha la sua strada, dici? Ognuno fa la sua. Io sono un grande appassionato di tennis, dici, ma Federer ha vinto più tornei dello Slam di Nadal. Vabbè, che se fa? Ognuno fa quello che no, che questo d'accordo, ma diciamo, lui ha sempre avuto una fama superiore alla tua. Cioè, hai un po' sofferto questa cosa o no? No, mai. No, per niente, no. E credi che si sia ritirato o no? Credi davvero che si sia ritirato? Un po' gioca con questa cosa, dimmi la verità. Attento, no, a borse chiuse, dillo. Torna, smette. Cioè, gioca un po' mediaticamente con questa cosa, Rocco, secondo ma me. Ma no, magari è in buona fede quando lo dice, poi l'impulso. Ma lui, c'è una cosa, adesso poi Rocco a volte con me si arrabbia, ma credo che lui comunque sia sposato, no? Beh, per sì, cui sì, quando non fa i film, non fa le scene, ha una partner sola che è sua moglie. Sì. Io per esempio che sono single, avendo smesso di fare porno, sì, mi cambia il giusto, perché comunque in privato posso fare tutto quello che voglio. Rocco da marito fedele, credo, quando non fa film ha solo una partner, capito? Non so se riesco a spiegarmi. Sì, no, e dunque soffre di questa cosa, dici? E quindi lui forse nella non attività soffre di più. Soffre un po' più rispetto a me, che io nella non attività però mi do da fare lo stesso. Scusami Franco, ma tu credi alla sua malattia, cioè il fatto che lui ha detto più volte anche da noi qui che è malato di sesso e tutto? Sì, beh, questo molti professionisti. Tu lo sei stato o no? Sì, hai avuto la malattia, sì, o hai ancora la malattia? È brutto, diciamo una carica superiore alla media che ti porta a... Cioè tu non pensi mai di diventare monogamo? È difficile, però se ci pensi, malattia ha una valenza negativa. La patologia sì, però se ci pensi, anche uno sportivo che ha una carica di energia psicofisica enorme la incanala lì, e non è una malattia, è una caratteristica. Sì, è un no, po' però, estrema. Cioè, però non ne puoi fare a meno. Cioè, quanto hai passato senza fare sesso al massimo? Ma sesso a Natale 2 settimane le faccio ogni anno di pausa, proprio apposta. Cioè, così apposta, 2 settimane all'anno di pausa. Sì, però l'allenamento che è la masturbazione, quello invece è sempre quella è quotidiana. Questo lo mettiamo in apertura domani. Pensavo di metterlo come articolo, come spalla, invece lo mettiamo come titolo. Mi masturbo ogni giorno. Fate presto, mettiamo questo come titolo. Voi siete uomini, mi capite, le donne forse lo intuiscono. Sì, no, per carità, guardi, stiamo rifacendo l'apertura, adesso mi faccio rimandare la mattina, stimola il risveglio, e la sera prima di andare a letto concilia il sonno. Perfetto, occhiello e catenaccio abbiamo pure. No, ma è stupendo. Io trovo che Franco, nella sua in realtà parla, è sempre stato considerato il pornostar intellettuale. Cioè, sì, no, ci capisce che ha un sempre, substrato. Chi voteresti adesso in politica tu, Franco? Se ti si dovesse votare adesso, dimmi la verità. Guarda, posso dire una cosa, che secondo me sono talmente poco degni di nota i nostri politici che qualunque cosa direi sarebbe uno spot a loro favore e non lo meritano. Non so, Grillo, che ne so, no, non ti piace Grillo? Non mi appassiona nessuno. Senti, che ne pensi di una persona molto in vista che è stata anche nostra ospite più volte, Valentina Nappi, per esempio? C'è una roba finta? No. Io in realtà non la conosco benissimo, mi dispiace, perché sicuramente, cioè, non abbiamo mai lavorato sul set, abbiamo lavorato insieme in alcune fiere di settore, E come si dice, ha sicuramente un caratterino, però non la conosco tantissimo perché quando è in Italia sta a Napoli, quando lavora in America non è che... Cioè può diventare, che ne so, cioè non ci sarà mai più una Moana Pozzi, una Cicciolina, avremo mai più, oppure un'altra epoca questa qua? È un'altra epoca perché è cambiato il modo di comunicare, come voi vi insegnate, però lei potrebbe essere una metra pensée dei nostri giorni. Parenzo, l'ho detto per te questo francesismo. No, metra pensée, tu metra capisci? No, ma dico in genere uno... Cioè questo qua chiede, è uno che ha fatto i soldi scopando nuova, tutta la vita. Dice, avremo un domani una Margaret Thatcher? No, lui chiede, avremo domani una Cicciolina? Non so, no, così è. Ci sarà domani la possibilità che una Golda Meir, che ne so io, Margaret Thatcher? No, lui chiede di Cicciolina. Comunque, va benissimo, andiamo avanti. Senti, però la sessualità è una via d'espressione potente. Assolutamente, ragazzi. No, ma assolutamente. Ma senti, ma tu quella con cui è venuto meglio, cioè quella che dici, vabbè, cioè la donna, la collega con cui hai, che secondo te è più straordinaria da quel punto di vista in tutta la tua carriera, chi è stata? Beh, la più faccio fatica, diciamo nelle top 5. Mettiamo le top 5, dai. Quella grande patata, ma una grande patata, se voi avete uno schermo davanti a voi, Angel Dark. Angel Dark, leggero strabismo di Venere, viso d'angelo, e qua ci risiamo. Una quarta naturale, simpatica, carina e super performante. E poi? Facciamo top 3, le prime tre. Angel Dark. E poi Angel Dark, Nikki Blonde. E allora, tutte Angel straniere. Dark, Angel Dark, slovacca. Sì, poi Nikki Blonde. Nikki Blonde, ungherese. Sì, poi. E il fisico più incredibile che abbia mai visto, Mia Diamond, che è ungherese di origine orientale. Cioè tu bocci tutte le italiane in pratica? Cioè, non c'è non stato... le boccio, ma per essere super parte, se facessi il nome di una, le altre che sono colleghe... Cioè non è che non le bocci, la realtà è che queste tre sono il top, secondo te, il top con cui sei stato. Sono top, poi le italiane sono brave, però le italiane spesso ci diventavi amico, troppo amico, allora essere troppo amico ti toglie un po' di carica diventa, erotica. Sì, no, effettivamente. Capito, Davide? Sì, no, capisco. Franco Trentalacce, sentiamoci presto, ciao caro. Sì, ciao. Sentiamoci presto, che esco con i libri e i corsi e il mattarello, vi devo regalare il mattarello. Il mattarello. Io penso che lui sia favorevole al mattarello, questo è importante. Che legge elettorale preferisci tu? Il mattarellum ti andrebbe bene? Beh, per forza, il mattarello. Mattarellum per affinità, in qualche modo sì. Il Mattarellum. Ciao Franco, ti abbraccio. Molto ciao, bene. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Saluti. Massimo da Milano, vai Massimo. Massimo. Andiamo a concludere. Ragazzi, abbiamo la top 3 delle preferite da Franco Trentalacce. Direi che è quasi l'apertura del Sole 24 Ore, parezzo. Sicuro. Sì, no, soprattutto la masturbazione quotidiana deve essere. Credo. Sì, Franco Trentalacce, certo. Mi masturbo ogni giorno. Fondamentale, certo. Fate presto, cambiate titolo. Fate presto. Massimo. Dai, Massimo, finito. Dai. La verità, gli immigrati nelle carceri costano 850 milioni l'anno. Chiudi. La verità, dai, ragazzi. Dai. Alessandro, di no, chi è Massimo? L'altra faccia dell'invasione. L'altra chi faccia. È? Chi è questo? No, è la verità, è il giornale, è ottimo. Gli immigrati nelle carceri costano 800. Dai, vai, Massimo, più, dimmi. Non ne posso più. Sì, vai, dimmi. Sì. Sentite una cosa, io stasera me la sono ghignata di brutto quando prima quel ragazzo friulano dava del cagasotto a Parenzo, perché mi ricordo quella fantastica puntata di Scherzi a Parte. Ma che c'entra? Quello era uno scherzo, ho capito, ma uno non può avere paura nella vita, non ho capito, qual è il problema? Ma non può avere... tutti il diritto di aver paura, allora... ma uno deve avere anche il coraggio di ammetterlo. È chiaro che se uno ti vuole aggredire uno ha paura, che fa? Un pullman in telo contro uno, ma che scherziamo scherzo? Parenzo, no, era uno da solo. Vabbè, era ma ho capito, solo. Ma che volete che uno faccia botte? Per rimarcare la dose, signori, adesso il signor Parenzo si è beccato 10 minuti di 30 lance, senza dargli del debosciato. Ma che debosciato? Quello ha fatto porno star, scusami. Tutto fuori che è debosciato. Il porno di solito fa il santarello, lui fa il santarello, sempre che... Vabbè, mi ha rotto i coglioni, ciao Massimo. Ragazzi, ragazzi, ci sentiamo lunedì, sempre sul pezzo. Ciao. Chiudi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Andiamo avanti. Radio 24. Libera la voglia di fare. Chiudi.